Il Leggio, podcast di lettura di testi liberi. A cura di Massimo Fierro. Il gioco degli immortali. Romanzo di Massimo Mongai. Capitolo secondo. Il primo inverno. Parte prima. Mi risvegliai nello stesso letto e nella stessa stanza che sembravano un ospedale. Nella sorpresa sorrisi anche. Ecco, era stato un sogno, strano, vivido, ma solo un sogno. Poi, non so cosa me lo fece pensare, pensai che non era così. Non era affatto un sogno. Né quella stanza, né la mia morte, né tutto ciò che avevo vissuto. Sentivo ancora i denti del lupo che mi squarciavano la gola. Ricordavo benissimo il fiato puzzolente dell'animale su di me. Era l'ultimo ricordo sensoriale che avevo prima del buio. E ricordavo ogni singolo maledetto momento di quell'agonia e di tutto ciò che l'aveva preceduta. Quindi era un incubo reale, ma un incubo. «Sei in grado di comprendere?» disse la stessa voce dell'altra volta. «Ma cosa sta succedendo?» risposi. «Sono in attesa di richieste.» «Ma cosa è successo?» «Sono in attesa di richieste.» «Voglio sapere cosa è successo!» «Sono in attesa di richieste.» «Voglio una pistola Colt 357 Magnum, modello 1980, canna da 3 pollici, modello export.» chiesi, sempre urlando. La dettagliai come avevo dovuto fare la prima volta che l'avevo richiesta, giorni prima. Apparve vicino alla mia mano. La presi, alzai il cane, me la puntai alla tempia e urlai: «Se non saprò immediatamente che cosa è successo, io mi sparerò!» «Sono in attesa di richieste.» Premetti il grilletto e la pistola scattò a vuoto. Eh già, non avevo ancora chiesto le pallottole. Mi venne da ridere. Mi misi a ridere e a piangere allo stesso tempo. Mi resi conto che anche se avessi chiesto le pallottole, le avessi avute ed avessi caricato l'arma e mi fossi sparato, dopo non molto, o forse dopo molto, chi lo sa, mi sarei trovato di nuovo in quel letto e che la cosa poteva andare avanti all'infinito. Lasciai perdere e chiesi una bottiglia di whisky, poi un'altra. Alla metà della seconda crollai. L'alcol è notoriamente un rimedio parziale ed inefficiente per risolvere i problemi. L'effetto di sollievo dura poco, ha molte conseguenze sgradevoli, dalla suefazione al mal di testa del dopo sbronza. Ma ha anche il vantaggio di essere rapido, economico e di dare una euforica illusione di star bene. Gli svantaggi poi, per una persona sana, in realtà sono un vantaggio, se non ne abusi più di tanto. E poi fa dormire male, ma senza sogni. Almeno me. Quando mi svegliai di nuovo, dopo l'ubriacatura, chiesi delle aspirine, dell'acqua, del succo di frutta e mi rimisi al lavoro. Richiesi subito molte delle cose che avevo chiesto la prima volta, ad esempio scrivania e computer, e mi rimisi a cercare di risolvere il problema a modo mio, come avevo fatto la prima volta, scrivendo, preparando schede, razionalizzando. Lavorai ininterrottamente per alcuni giorni. Cosa sapevo? Che qualcuno mi aveva messo in una situazione complessa, per qualche suo motivo, e su questo argomento, il chi, il come ed il perché, oltre non andavo. Non avevo elementi per ricavare altro. Quindi dovevo posticipare questa parte del problema a quando avessi avuto altri dati. In cosa consisteva concretamente questa situazione complessa? Ovunque fossi ora, ci sarei rimasto per 2 settimane, anzi, esattamente per 15 giorni di 24 ore l'uno. Nel corso di questi 15 giorni, un meccanismo o un insieme di meccanismi predisposto a ciò mi avrebbe fornito qualunque cosa io avessi richiesto, qualunque oggetto materiale, Dopodiché sarei stato immesso in un mondo estremamente simile alla Terra per caratteristiche esteriori, atmosfera, biologia, ecosistema e mille altre cose, ma che non era la Terra. In questo modo avrei trovato specie animali identiche a quelle terrestri, specie terrestri estinte e specie animali non terrestri. Avrei trovato anche esseri umani in tutto e per tutto simili ai terrestri, come noi violenti ed aggressivi, ma forse non più di noi. Per quello che ne sapevo, senza dubbio più barbare e comunque tecnologicamente meno evolute. Ma anche questo non era detto. La tribù di cacciatori che avevo incontrato era a livello di civiltà neolitica, ma sul pianeta ci poteva essere anche altro. In fondo, anche sulla Terra che avevo lasciato, convivevano tecnologia nucleare e, nelle foreste amazzoniche o malesiane, quella neolitica. Se fossi stato ucciso, sarei stato resuscitato all'interno di questa macchina, comunque in questo luogo nel quale stavo scrivendo. Forse. In realtà non era detto. Era successo questa volta, ma sarebbe successo di nuovo? E se sì, sarebbe successo sempre o per un numero limitato di volte? Avevo 7 o 1000 vite? O solo 3? Non che ci tenessi a fare l'esperienza, intendiamoci. Ero morto, ero stato ucciso e non era un'esperienza gradevole. Non è come addormentarsi, vi assicuro. No, non avrebbe dovuto mai più accadere di nuovo. La sicurezza fisica era a quel punto il mio obiettivo principale. Anzi, rapidamente divenne la mia ossessione. Cominciai a stilare liste su liste di oggetti che mi avrebbero potuto essere utili per sopravvivere, per difendermi, per muovermi. Le scrissi e le riscrissi all'infinito. Ci lavorai con metodo ed a lungo. Mi resi conto che era inutile chiedere di tutto. Occorreva chiedere qualcosa che mi sarebbe stato utile, ad esempio, nella radura o nella savana nella quale ero stato catturato, o su una montagna di quelle che intravedevo alla fine della savana. Insomma, occorreva un progetto articolato di sopravvivenza. Alla fine chiesi ed ottenni ciò che mi sarebbe servito. Chiesi di nuovo e prima di tutto armi e munizioni. Esclusi il carro armato. Era stata una scelta sciocca. Quanta nafta poteva portare il serbatoio? Quanta nafta in più potevo chiedere? Contenendola dove? Inoltre, i tank vanno bene in pianura o su pendii leggeri, nelle foreste no davvero. E comunque non sapevo portarlo un tank, ed imparare avrebbe portato via tempo inutilmente, dato che prima o poi ne avrei dovuto fare a meno. Chiesi di nuovo una mitraglietta Uzi e relativo ammunizionamento, 200 caricatori da 50 colpi l'uno. Poi pensai alle tigri ed ai selvaggi e raddoppiai la provvista. Poi chiesi un fucile di precisione, un Anschutz Savage calibro 312 high speed con cannocchiale. Aggiunsi alla lista bombe a mano da assalto, solo con lampo e rumore, e da difesa, tipo ananas a frammentazione. Un paio di grossi coltelli da combattimento, un lanciamissili il più elementare possibile con una riserva di 30 colpi. Mine anti-uomo di 3 tipi diversi per un totale di almeno 80 pezzi. Poi armi ad avancarica. Proprio così, un paio di fucili ottocenteschi con pallettoni e pallini, una decina di chili di polvere da sparo. E chiesi anche alcune migliaia di capsule detonanti, ognuna delle quali equivaleva ad un colpo, ma di peso e di ingombro molto più limitato della polvere da sparo. Sapevo che la polvere da sparo, diversamente dalle capsule, è relativamente facile da farsi. Chiesi alcuni libri sull'argomento, e quelle armi avrebbero potuto funzionare a lungo, anche quando avessi finito le pallottole per le armi più moderne. Già che c'ero, chiesi anche un paio di archi e di balestre, con frecce e verrettoni in abbondanza, oltre a punte e penne di bilanciamento per fabbricarne altre. Chiesi attrezzi di tutti i tipi, dal martello ai chiodi, dalle tenaglie ai trapani, dalle seghe alle asce, eccetera. Tutto ovviamente non elettrico. Chiesi anche contenitori di vetro, di plastica, di metallo, di molte forme e dimensioni, per conservare cibi. Poi viveri a lunga conservazione di tutti i tipi, dal latte in polvere alla carne in scatola, dalla frutta sciroppata in scatola ai salami. Sale in quantità. Prevedevo salature di cibi locali in attesa di trovare il modo di trovare il sale in loco. Medicine, dai cerotti agli antibiotici a largo spettro, bende, anestetici, siringhe automatiche, un termometro, alcuni ferri chirurgici, uno stetoscopio, dei manuali di pronto soccorso, dei libri di medicina. Libri, poi, di tutti i tipi, manuali di istruzioni, una piccola enciclopedia della tecnologia che mi avrebbe permesso di ricostruirmi, forse, un modo di vivere decente. Ma anche libri da leggere, di tutto, dai gialli di Nero Wolf che conoscevo a memoria, fino a tutta la Recherche di Proust, che sulla Terra non ero mai riuscito a leggere perché la trovavo troppo noiosa, e molti altri autori. Il tutto in edizione estremamente ridotta per spazio e ingombro. Una macchina da scrivere portatile, un vecchio modello, una lettera 32 della Olivetti, tutta in metallo praticamente indistruttibile, a casa ne avevo una vecchia di 40 anni che faceva ancora alla grande il suo mestiere, 10 nastri di ricambio, anni ed anni di scrittura garantita, carta, matite, penne, cancelleria varia, un mangianastri a pile, ovviamente, ed una riserva di torcioni per un paio di mesi ed un bel po' di cassette di musica, per lo più classica. Poi lo avrei dovuto buttare, ma almeno un po' mi avrebbe aiutato. E molte altre cose che non vi sto ad elencare per esteso, da un mini gruppo elettrogeno che avrebbe potuto funzionare, forse, con una cascata d'acqua, a una bussola, che non avevo idea se avrebbe mai funzionato su un pianeta diverso dalla Terra. Da una riserva di spezie ad una ventina di chili d'oro, sotto forma di monetine, lingottini e catenine ornamentali, gioielli, pietre preziose. Scelsi l'oro perché pensai che probabilmente, a meno che fosse super abbondante sul pianeta, anche lì sarebbe stato un metallo prezioso da usare negli scambi. L'oro è sempre stato un metallo prezioso per tutte le civiltà terrestri ed il motivo non è una specie di misteriosa auri sacra fames, biologicamente determinata, ma semplicemente il fatto che è un metallo estremamente malleabile, con il quale, anche solo battendolo con una pietra, si può fare di tutto, e soprattutto che non si ossida mai, quindi finisce per creare intorno a sé leggende di immortalità. E gioielli e pietre per gli stessi motivi. Gli esseri umani sulla Terra, uomini e donne, in ogni tempo ed in ogni luogo hanno sempre amato adornarsi di gioielli di tutti i tipi. Insomma, l'idea era avere di che fare scambi e di che difendermi. Per portare tutto ciò furono necessari 12 muli che provvidi a chiedere, scoprendo così che potevo chiedere essere viventi. In teoria avrei potuto chiederne altri e chiedere carri per trasportare il tutto, ma il problema era che ero solo e già controllarne 12 sarebbe stato difficile. E già che c'ero, chiesi anche un altro po' di animali. Un po' di galline, gallo compreso, 2 capre femmine ed un caprone, tanto per far razza e avere uova fresche. Quando mi furono consegnati direttamente lì, nella stanza in cui li chiedevo, apparvero liberi, senza gabbie o stie. Non vi dico la confusione. Provvidi a chiedere gabbie e stie e ci misi alcune ore per venirne a capo. Poi mi resi conto che mi servivano anche il cibo per quegli animali ed un luogo adatto e quindi ordinai una stalla su misura. Improvvisamente mi resi conto che forse quel gallo, quelle galline e quella capra forse venivano dalla Terra, ma forse no, mi dissi subito. Per un attimo li avevo sentiti quasi come fratelli, come amici. Anche in questa occasione mi accorsi solo in un secondo momento di cosa mi ero dimenticato, di cosa avevo chiesto in quantità eccessiva e di cosa in quantità esagerata. Ma sapete com'è, degli errori che facciamo ce ne accorgiamo sempre dopo. E d'altra parte, la situazione nella quale mi sarei trovato non era davvero una situazione prevista in un qualche manuale. Voi cosa avreste scelto al posto mio? Una radio, ad esempio? E per farci che? Io la presi, intendiamoci, ma a parte il fatto che andava a batterie e che quindi dopo un po' si scaricò, ma per sentire chi? Presi anche 2 walkie-talkie, pensando che avrebbero potuto essermi utili quando avessi trovato un alleato, un amico, ed un caricabatterie da collegare all'impianto da allacciare ad una cascata, sempre che anche quello avesse funzionato. E non fu facile chiedere ed ottenere, sempre per quella maledetta mania di dover dettagliare tutto fino al limite del dettaglio d'archivio della macchina. Ogni richiesta era una fatica improba. Il tempo volò e dopo 15 giorni esatte fui di nuovo immesso sul pianeta, con la stessa identica non sensazione della prima volta, con tutte le casse di tutti i materiali che avevo richiesto e con i 12 muli ed i loro basti. Mi ritrovai all'aperto, di nuovo in una radura di un bosco, molto piccola, con un sentiero largo pochi centimetri davanti a me. Mi chiesi se le radure erano una costante. Ero teso e spaventato, stavolta, e molto sulla difensiva. Decisi di non allontanarmi dal luogo in cui ero certo ci fosse una uscita dal computer, con il vago progetto di stipulare un'alleanza con coloro che fossero usciti da lì dopo di me, anche se per quel che ne sapevo potevano passare anche anni prima che uscisse qualcun altro. Cominciai a scavare una fossa. Avevo infatti deciso che gran parte del materiale che avevo portato con me lo avrei lasciato lì, in una cache, una buca non troppo profonda ed impermeabilizzata con tele di plastica, e che sarei tornato di volta in volta a prendere ciò di cui avevo bisogno. Ci misi un paio di giorni a completare l'operazione, dormendo poche ore per notte, all'interno del cerchio formato dai muli legati fra loro, a titolo di difesa preventiva. Sapevo che se fosse riapparsa una tigre, o chi per lei, umani compresi, avrebbe assalito loro prima di me, e che loro comunque forse l'avrebbero annusata prima di me, una specie di muro di carne, insomma. Dormii con la mano sull'uzzi e dormii male, svegliandomi diverse volte in preda alla paura. Poi mi venne in mente che potevo disporre alcune mine antiuomo tutti intorno al cerchio dei muli e ad una certa distanza per di più, e collegarle a dei fili di nylon, cosa che feci dopo aver letto con molta attenzione i manuali di istruzione e che mi aiutò a dormire un po' di più. Dopo qualche giorno mi avviai sul sentiero per poche centinaia di metri, tornai indietro e lo percorsi nella direzione opposta. Passai l'intera giornata a conoscere il territorio immediatamente circostante. Il bosco era una faggeta di alberi alti con un sottobosco fitto ma non troppo e molti sentieri, apparentemente scavati nel verde o da animali o da piccoli torrenti primaverili da disgelo. Di nuovo non c'erano sentieri calpestati da piedi umani, perlomeno apparentemente. Trovai uno di questi torrenti più grande e stabile, un piccolo fiume, un po' più a valle, e quindi decisi, a maggior ragione, di stabilirmi vicino ad una fonte d'acqua, sia per l'acqua in sé, sia per l'idea di trarre da una cascatella naturale la corrente elettrica. Trovai una piccola grotta, 200 metri più a valle, e mi ci stabilii. Misi tutte le provviste sul fondo, coperte da rami e da cespugli. Tenni le armi a portata di mano ed ammucchiai della legna secca vicino all'ingresso, ma non l'accesi. Non volevo qualcuno vedesse la luce del fuoco finché non fossi stato certo di essere in grado di difendermi. Dormii alla meno peggio, svegliandomi diverse volte, in parte per rumori esterni, in parte per gli incubi che affioravano. Sapevo di essere vivo e che in questo c'era una qualche logica, ma il mio corpo ricordava solo l'orrore di una morte subita poco prima. Improvvisamente cominciavo a sudare freddo o a tremare, senza potermi arrestare. Era proprio come se il mio corpo non potesse accettare l'idea di essere stato ucciso e di essere ancora vivo. Il corpo credo possa accettare la morte. Credo però che non possa accettarla due volte. La può accettare, ma non ricordare. Non so, forse sto dicendo delle sciocchezze, ma quando avevo un po' di tempo per pensare, e pensavo a cose di questo tipo, avevo l'impressione che il mio corpo ricordasse, a prescindere dal fatto se ricordavo o meno io. Cercavo di non pensare al fatto che ero probabilmente già morto due volte. Non sapevo come razionalizzarla questa cosa. Questo non era l'aldilà, questo era un altro pianeta. Ma io ero senza dubbio morto due volte. E se io smettevo di pensarci, se io riuscivo a non pensarci, il mio corpo invece no. Lui era sempre presente a questo orrore e non si voleva adattare. E a volte mi affiorava il pensiero che forse l'unico modo era uccidersi e rinato continuare a uccidermi finché chi mi risuscitava non si fosse stancato ed io sarei morto definitivamente, finalmente. Passai due settimane in questo stato finché non mi calmai. Nel frattempo mi ero orizzontato a sufficienza. Mi trovavo sul costone esposto a sud di una montagna simile ad una montagna terrestre, alta probabilmente oltre i 4.000 metri. Sempre approssimativamente e considerando il caldo, l'altezza del sole ed altri particolari, tutti basati sulle mie impressioni di montanaro della domenica, dovevo essere a circa 1.000 metri di altezza, in una zona temperata del pianeta ed in una stagione che si avviava verso il caldo estivo. Intorno a me, molti animali, fiori, le prime bacche e le giornate che si allungavano. Questo lo dedussi subito dal gioco delle ombre su un orologio solare che mi ero costruito in uno spiazzo vicino alla mia capanna. A forza di fare piccole esplorazioni e con l'aiuto del binocolo, avevo trovato il luogo dove stabilirmi. Era in prossimità del torrente, che faceva un'ansa in discesa. Io mi ero messo nell'ansa, così da avere il torrente in alto ed in basso al tempo stesso. Per future opere idriche avrei preso con dei tubi di terracotta o di bambù l'acqua dall'alto, l'avrei usata ai miei scopi per restituirla al torrente in basso. Nell'ansa c'era una specie di radura, leggermente inclinata, con diversi cespugli, e su un lato del costone della montagna c'era un'ampia grotta, che era essenziale ai miei progetti. Cominciai a costruirmi una capanna di tronchi. La capanna era dapprima una capanna di rami costruita alla meno peggio come copertura della grotta, che era ampia, areata ed asciutta, e che aveva il grandissimo pregio di avere altre tre uscite, tutte e tre piccole e nascoste nella vegetazione, ma al tempo stesso praticabili. L'uscita dalla grotta, e quindi la capanna che ne occultava l'ingresso, era esposta a sud ed aveva una bella visuale sulla vallata. Al tempo stesso era abbastanza coperta dal bosco così da poter sperare di non essere notato dalla vallata stessa, quando avessi fatto luce o fumo. Quando mi fui rassicurato che non c'erano tracce umane nei paraggi e dopo aver disposto un sistema di mine antiuomo tutt'intorno alla radura, e sempre tenendo l'uzi a portata di mano, cominciai i lavori. L'idea era di costruire una piattaforma dinanzi all'ingresso della grotta, poggiata a monte nella rientranza stessa della grotta ed a valle su due o più pilastri di tronchi. Su questa piattaforma avrei costruito la mia vera e propria capanna di tronchi stile Far West americano, con i tronchi ad incastro ad angolo retto negli angoli ed il tetto inclinato per far slittare la neve. Avrei vissuto nella capanna, ma avrei usato a molti altri scopi anche la grotta. Fu dura, ma il lavoro funzionava da terapia fisica e psicologica. Inoltre mi irrobustiva. Il problema non era trovare o abbattere gli alberi, quanto trasportarli. Non volevo infatti creare una radura troppo grande intorno alla casa, per di più una radura artificiale con i ceppi dei tronchi tagliati. Qualcuno avrebbe potuto notarla. In prospettiva, infatti, volevo mimetizzare anche la capanna, in modo che sembrasse una parte della radura e del costone. I muli mi potevano aiutare, ma non poi tanto, dato che sentieri non ce n'erano. Peraltro, nel frattempo, me ne erano morte 5, di malattia, incidenti ed uno per una tigre. E due erano scappati, per cui ne avevo solo 5, che tenevo per lo più alla cavezza nella grotta stessa. Tagliai gli alberi molto più a monte, sfrondandoli e facendoli scivolare piano piano a valle con un sistema di corde e pulegge e servendomi di un paio di muli per volta. Riuscivo a lavorare in questo modo un paio di tronchi al giorno. Un giorno lavoravo ed un giorno cacciavo o raccoglievo. E queste due attività erano sorprendentemente facili. La selvaggina, cervi, daini, galli cedroni, la tipica selvaggina da foresta europea o americana, abbondava come in un film naturalista ed era facilissimo catturarla o ucciderla. Dopo un po' non usavo più neppure l'arco o il fucile e mi limitavo a porre trappole, alcune con le tagliole che avevo chiesto alla macchina, altre che avevo imparato a fare leggendo i manuali che avevo richiesto. C'erano molti cespugli di bacche diverse e tutte dolci e commestibili, e funghi identici a quelli della terra, oltre ad altri mai visti che ovviamente non colsi, ed un tipo di albero da frutto che non avevo mai visto e che produceva una specie di pane, direi, una specie di zucca, chiara e farinosa e quasi senza sapore, che però tagliata a fette, lasciata seccare o tostata, poteva sostituire benissimo il pane. Dopo 2 mesi di 12 ore di lavoro al giorno, la piattaforma era ultimata insieme ai muri perimetrali e dalle travi portanti del tetto, che coprì di rami, terra e frasche. Mi dedicai alle altre difese passive intorno alla capanna. scavai un primo fossato e con la terra che scavavo alzavo un muretto verso l'interno. Sul muretto misi dei paletti acuminati, sottili e di diversa lunghezza, e vi trapiantai dei rovi. Trapiantai dei rovi anche sulla sponda opposta del fossato, così che a prima vista chi vi fosse passato vicino avrebbe visto solo una fitta muraglia di rovi alta un paio di metri, dietro la quale vi era solo una più alta e fitta muraglia. Certo, quando i rovi fossero abbondantemente cresciuti. Questa doppia muraglia era come un cerchio di 30 metri di diametro che circondava la mia casa, partendo dai costoni della montagna. Da un lato della muraglia il lavoro fu molto difficile, perché era proprio sullo strapiombo, e dagli altri la feci un po' più alta. La mia casa sporgeva dalla grotta e quindi la nascondeva verso una radura circondata dalla doppia muraglia. Dall'esterno e da pochi metri più in basso non si poteva vedere niente. La casa poteva essere notata solo dall'alto. Ma per risolvere questo problema mi ero recato proprio sulla sporgenza che mi sovrastava ed avevo notato quanto era difficile e senza senso arrivarci. Comunque, per precauzione, decisi di mettere delle trappole in tutta quella parte della montagna. Chi fosse arrivato sul bordo della montagna sopravvivendo alle mine, in quel punto si sarebbe visto crollare il suolo sotto i piedi e sarebbe precipitato, sia che io ci fossi, sia che io non ci fossi. Come ulteriore precauzione, ultimato il tetto con tegole di legno, lo coprii di un leggero strato di terra, su cui adagiai delle zolle di terra ed erba, sperando che attecchissero. Allargai la cintura delle mine antiuomo ad oltre 500 metri di raggio dalla casa stessa, e circa 10 metri prima di ogni mina misi dei teschi di animali su dei pali, come a dire vai avanti a tuo rischio e pericolo, giusto per un residuo di un piccolissimo scrupolo. In prossimità del torrente più a valle trovai delle specie di bambù, delle grosse canne di palude, ma molto grosse. Me ne feci bicchieri e contenitori di tutti i tipi, ma anche tubature per ricevere l'acqua direttamente in casa dal torrente. Fu un impianto decisamente artigianale e di cui avrei dovuto cambiare diversi pezzi man mano che si corrodevano le canne, ma vi assicuro che farmi una vera e propria doccia dopo 4 mesi di quella vita fu un'esperienza esaltante. Avete ascoltato Il Leggio, podcast di lettura di testi liberi.